Allora, per il 25 novembre, ma in generale in tutte le società e in tutto il mondo, le donne lottano contro il patriarcato, contro le violenze dei maschi contro di loro, contro tutte le forme di violenza, lottano contro per la libertà delle donne, per la libertà dei loro popoli. Abbiamo con noi con piacere Patrizia Fiocchetti, che ha pubblicato ultimamente Variazioni di Luna, donne combattenti in Iran, Kurdistan, Afghanistan. Allora, ovviamente è un libro che consigliamo perché è molto molto bello da leggere. E poi sì, cioè io ho imparato un sacco di cose. E non vorrei che inizi a raccontare tutte le situazioni in cui sei stata nella tua vita, perché comunque è impressionante anche questa esperienza, queste scelte che hai fatto. Ma per iniziare ti chiederei, dunque, sei andata a vivere con i battaglioni di donne del Muajin iraniani negli anni 90. Poi hai incontrato le donne del Kurdistan, dei PG, poi la parte sull'Afghanistan l'ho sopravvolato, non l'ho letta bene, ma anche lì si parla di donne. E dunque questa prima domanda sarebbe che legame c'è tra tutte queste donne? Che cosa puoi dire? Cioè, un legame, un filo tra di loro. Intanto grazie per l'invito e saluto tutte le ascoltatrici e anche le redattrici di Radio Onda Rossa. Allora, il libro l'ho voluto scrivere, fortemente scrivere, per due motivi. Proprio perché innanzitutto volevo parlare in forma diversa da quello che poteva essere un reportage, quindi un'esperienza di stampo giornalistico, in qualche modo anche distaccata in quanto scrittrice, dell'esperienza di queste donne incredibili, ma nello stesso tempo così simili a noi, che ho conosciuto nell'arco della mia vita e della mia attività e del mio attivismo. Quello che per me era importante, ecco perché ho raccontato anche la mia storia, era quello di trovare proprio il denominatore comune, al di là della distanza e della differenza del tipo di nemico che queste donne andavano affrontando. E il denominatore comune era proprio una cosa essenziale, era la scelta. O quello che alcune volte le donne afghane anche mi dicevano, la non possibilità di scelta, di poter essere attive e di poter essere combattenti, resistenti, a qualsiasi livello, per sconfiggere un nemico, per sconfiggere un regime dittatoriale autocratico come quello iraniano, piuttosto che un nemico terrificante come l'ISIS o i signori della guerra al potere in Afghanistan, che stavano schiacciando il loro popolo e che si servivano innanzitutto di un elemento fondamentale e che univa nella negatività anche questa esperienza, e cioè la violazione dei diritti delle donne. Cioè, come prima, se si vanno a vedere le storie e qual è stata l'excursus anche politico di queste tre esperienze, si vede che le prime azioni che sono state fatte sono state nei confronti delle donne. Quindi, in quanto azione repressiva e di violazione dei diritti delle donne, queste divenivano immediatamente azione politica nei confronti di un intero sistema paese, e quindi le donne si sono sentite in prima persona coinvolte in quanto prima di tutto elementi politici, soggetti politici, e non da un punto di vista represse, da un punto di vista sociale, culturale, educativo, ma in quanto una politica repressiva, dittatoriale, si fondava proprio innanzitutto sulla repressione dei diritti delle donne a qualsiasi livello. E la cosa interessante di queste azioni, torno a ripetere, in diversi contesti, perché sono contesti completamente diversi, è stata come la scelta di lottare e di diventare una parte attiva prendendo anche le armi, che non è un atto naturale per nessuno e neanche per le donne lo è, nasce in realtà da un processo di indipendenza, di autodeterminazione, che nasce all'interno delle famiglie, che nasce all'interno delle scuole, del tessuto sociale in cui queste donne vanno a formarsi e vanno ad imporsi come soggetti attivi. Per cui io credo che sia molto interessante quello che a me ha colpito moltissimo in tutta questa mia esperienza che ho vissuto, appunto, in quella iraniana in prima persona, le altre come testimone, ma grazie all'esperienza iraniana mi sono sentita coinvolta in maniera molto immediata, è stato questo voler affermare la loro normalità di persone e di donne, e non quindi eroine, Angelina Jolie o belle combattenti o vuoti simulacri, ma in realtà nella loro normalità dirci: noi non avevamo scelta, abbiamo scelto, siamo convinte di questo, stiamo portando avanti un discorso politico. L'ombrello delle azioni di liberazione dei nostri popoli, della nostra terra, dei nostri paesi, è l'ombrello della liberazione delle donne in primis. Questo è una cosa importante, perché queste donne non le possiamo a quel punto vedere come nelle fotografie, così lontane da noi. Può essere chiunque di noi, deve essere chiunque di noi. Sono donne che hanno rinunciato ad essere madri, che hanno divorziato dai loro mariti, perché quella lotta per loro era molto più importante, in una società in cui, figuriamoci se la donna poteva soltanto pensare di divorziare. Hanno deluso i propri genitori, sono state torturate in maniera atroce all'interno delle carceri e hanno resistito. Queste donne sono donne come noi, hanno sofferto lasciare i propri figli. Ho conosciuto donne che hanno dovuto scegliere di lasciare i propri figli. L'hanno fatto perché sapevano che questo era un passaggio che dovevano fare, era ineluttabile. Quindi io credo che ho voluto scrivere un libro di donne, tra virgolette, normali, che però hanno fatto una scelta incredibile, e in questa scelta loro sono diventati dei soggetti talmente eccezionali, ma così vicini a noi. Potresti entrare? C'hai una domanda? Grazie. Sì, grazie. Potresti entrare un po' nello specifico dell'esperienza della tua vita con le donne iraniane? Come no? Allora, innanzitutto vorrei fare una piccolissima premessa. Io sono uscita come combattente, perché io anche sono stata una combattente a tutti gli effetti, e come membro dei Mujahideen del popolo iraniano nel 1999, agli inizi del 1999, quando avevo 38 anni, cioè dopo 13 anni sono entrata che avevo 25 anni, sono uscita a 38 anni, e sono riuscita a parlare della mia esperienza dopo 16 anni, e ne ho parlato in un millesimo in questo libro. Perché quando ho voluto scrivere di queste donne, ho capito che per parlare di altre donne in un certo modo bisogna mettersi in gioco in prima persona, e allora a quel punto io mi sono messa in gioco e ho scritto quello perché io mi sentivo così legata a loro. La mia esperienza con le donne della resistenza iraniana, come dicevo appunto, è durata 13 anni, nasce da una scelta di una ragazza di 25 anni agli inizi degli anni 80, che non voleva fare una vita normale, non voleva pensare di essere una studentessa, laurearsi, avere una famiglia, ma aveva voglia, sono figlia dei miei tempi, figlia dei movimenti studenteschi, figlia dei movimenti femministi, e soprattutto anche di una certa amarezza, no? Di una sconfitta che noi avevamo subito. E io avevo voglia di mettermi in gioco. mi stavo organizzando per andare in Palestina, poi è successo che sulla mia strada in Gran Bretagna, dove ero andata per altri motivi, ho trovato loro, una cosa di cui io non sapevo assolutamente niente, e lentamente sono entrata, mi sono proprio sentita coinvolta, perché pensare che un movimento che comunque ha un'ideologia socialista, di una visione, di una lettura socialista dell'Islam, come quello dei Mujahideen del Popolo, nell'85 decide di eleggere a co-leader di un'organizzazione di questo tipo una donna, portando uno sconvolgimento incredibile a un'organizzazione dove le donne, comunque questa organizzazione nasce nel periodo del 57, quindi sotto lo Scià le donne sono sempre state molto partecipi, ma il fatto di portarla a un livello così alto è stata una cosa talmente sconvolgente, perché dopo di lei sono venute dietro tutte donne che hanno preso lentamente ma inesorabilmente dei ruoli importanti a qualsiasi livello, a livello politico, a livello economico, a livello militare. E infatti, perché è stata fatta questa sorta di rivoluzione ideologica dove tantissimi membri, uomini, anche donne, hanno subito un impatto così forte? È stata fatta proprio perché contro un regime che aveva fatto della misoginia, della violazione dei diritti delle donne, dello stupro, del fucilare e violentare le donne, le donne, le minori ancora vergini, dicendo che loro così non sarebbero accedute al paradiso islamico. Portarle per esempio nelle carceri, dentro delle zone, c'è cioè un braccio ad Evin, che raccontava una donna che è uscita dal carcere di Evin dopo diversi anni, da cui non è mai uscita una donna, dove venivano portate le ragazze più giovani e quelle più belle, e le poche che sono uscite erano completamente impazzite, quindi non si sa, non si ha testimonianza di quello che è successo, di quello che succede all'interno di questo braccio nel carcere di Evin. Vedere come un regime avesse fatto questo, la resistenza ha detto porsi contro un regime di questo genere vuole innanzitutto il nemico fondamentale, che sono la donna, la sua liberazione, il suo ruolo di leadership. Trovare questo nel 1985, venendo da un'esperienza in cui tante volte nei movimenti tu gli dovevi tirare le bottiglie ai compagni, che erano i pet delle volte veramente ti ci scontravi, perché sì le questioni femminili, no ancora adesso, sì vabbè, ma poi no, e poi avevi delle situazioni di machismo reale. In una situazione in cui, cavolo, non è che qui si, cioè, tu stavi in una situazione diversa, lì veramente si rischiava la vita, anche perché leggevi un giornale o perché avevi un gettone in mano, perché chi aveva gettone si sapeva che doveva telefonare a qualche cellula, per cui veniva arrestato, no? Soprattutto gli studenti. E vedere una rivoluzione di questo genere, cioè, per me è stata, dico, andiamo ad approfondire. E questo mi ha portato poi come diretta conseguenza, perché chiaramente questa era una resistenza che poi è diventata una resistenza armata, alla creazione di un esercito formato da diversi battaglioni, e agli inizi degli anni 90 è nato questo Lashgar-e-Chorda, il battaglione 14, che era un battaglione formato a tutti gli effetti e in tutti gli strati da sole donne, e io ho avuto l'onore, il piacere, la fortuna di far parte di questo battaglione anche, ma comunque per me è stata una cosa incredibile. Ho fatto parte di questo battaglione, sono stata per diversi mesi responsabile logistica, quindi un livello anche alto, considerando che io poi ero un'italiana all'interno di un contesto completamente iraniano, eravamo pochissime straniere all'interno, e vedere questa condivisione di sorellanza, che lo devo dire, sono molto sincera, mi manca da morire. Cioè, io lo scrivo nel libro, noi eravamo, ci sentivamo come dita di una stessa mano, cioè era una cosa, è una sensazione di forza che anche nei periodi più difficili, bombardamenti subiti, dover prendere e lasciare la base per andare nel deserto perché si rischiavano i lanci dei missili, qualsiasi cosa, però tu ti sentivi veramente parte di un tutto che, devo dire la verità, un po' mi manca parecchio. Questa esperienza mi ha, come posso dire, mi ha portato come conseguenza diretta il voler cercare, continuare a cercare in Italia, ma anche al di fuori dei confini italiani, tutte quelle esperienze, portare anche a conoscenza, per esempio, delle donne occidentali, delle donne italiane, una volta che sono uscita dalla resistenza, di tutte quelle esperienze, di tutte quelle realtà di donne che stanno facendo questo. E questo ci porta a guardare come direttamente in Kurdistan. Sei andata a Kobane in marzo 2015. Sì, esatto. La situazione del Kurdistan forse vuoi introdurre, poi noi chiamiamo questa compagna che è tornata ieri da Med e che ci racconta un po'. Sì. Allora, quando io sono stata a Kobane nel 2015, va bene, io sono arrivata con, siamo andate con la staffetta donne del Rojava Calling, e a Kobane, e diciamo in Turchia, perché noi siamo entrate da Surush, per cui dall'ultimo avamposto turco nel Kurdistan, diciamo nella zona sud-est, sud-orientale della Turchia. Siamo entrate a Kobane clandestinamente, chiaramente, perché non te ci facevano entrare normalmente, o almeno era difficile, però non c'era quest'aria così repressiva che si è scatenata poi dal luglio 2015 in quella zona. L'esperienza, vorrei dire soltanto una cosa, l'esperienza di Kobane è stata molto forte, e gli incontri che abbiamo fatto sul posto sono stati interessanti, e credo che uno degli incontri più belli sia stato proprio con questa giornalista curda di Kobane, di cui non ha parlato praticamente nessuno. Credo di essere stata una delle pochissime a parlare di Xesne Nebi, questa giornalista televisiva incredibile che ha raccontato i bombardamenti di Kobane. E quando nessuna televisione, radio, giornalista era presente sul posto. E credo che con lei proprio ho ritrovato una delle tematiche principali, che cioè quella della narrativa al femminile, del femminile, cioè non parliamo, che bisogna trovare un modo diverso e dei nuovi criteri di parlare delle donne, di parlare della politica delle donne, e soprattutto di fare che il nostro parlare delle donne sia innanzitutto politico e non cronaca di qualsiasi livello, compresa appunto, anzi soprattutto io metterei la questione della violenza sulle donne, che è tema molto importante. Credo che loro l'abbiano dimostrato in situazioni estremamente gravi e difficili, e questo deve essere uno spunto per noi. Tra parentesi, approfitto perché io sto partecipando a un progetto che riguarda proprio la ricostruzione della casa delle donne a Kobane, insieme all'associazione Ponte Donna, di cui è partner anche Lucia Siesta, con il cofinanziamento della l'8 per 1000 della Tavola Valdese. È una cosa importantissima proprio perché la casa delle donne, non solo a Kobane in Rojava, ma anche nel sud-est della Turchia, io l'ho sperimentato agli inizi di ottobre quando sono stata a Van, vicino ai confini con l'Iran, è estremamente centrale per la vita comunitaria. Mm-hmm. E quindi, e soprattutto per Kobane, è essenziale e nello stesso tempo anche molto simbolico, perché è stato uno dei primi palazzi ad essere bombardati dall'ISIS quando sono entrati. Per cui per chi è interessato anche per questa iniziativa, che sta, tra parentesi, andando bene, loro hanno già cominciato a costruire, stanno già al secondo piano, nonostante la situazione di forte pressione che c'è da parte dell'esercito turco, che sapete è penetrato in Siria, comunque sta costruendo il muro con Kobane, anzi l'ha finito, però sta cercando anche di dividere i cantoni del Rojava, anzi ci sta quasi riuscendo, perché diciamo che il governo di Assad non è che gli interessi molto di quello che per il momento, di quello che succede in quella zona. Credo che sia molto importante il fatto che comunque la ricostruzione della casa delle donne stia continuando ad andare avanti, proprio in quanto fattore estremamente essenziale della politica. Chiaramente non ci dimentichiamo che le donne sono il pilastro principale del confederalismo democratico, forse proprio quello più importante. Quindi faccio soltanto un rapido passaggio sulla situazione a Van, perché io ho un rapporto diretto lì, sto curando un altro progetto finanziato dalla regione Friuli Venezia Giulia, che è con la cooperativa di Pordenone Coop Noncello, che è quello di fare un empowerment dell'imprenditorialità femminile in questa zona Van sta ai confini con l'Iran, è sempre nel sud-est turco, quindi è una zona curda, siamo nella regione curda. Noi abbiamo incontrato agli inizi di ottobre queste donne incredibili della cooperativa e anche del municipio, della municipalità di Van. Abbiamo parlato con i cosindaci. Ancora Van agli inizi di ottobre era una città, quasi uno degli ultimi avamposti di dove ne era giunto la lunga mano di Erdogan. Purtroppo, ahimè, con grosso dolore ho appreso che la settimana scorsa il sindaco, che anche Van è stata commissariata, il sindaco è stato arrestato. La mia referente sul posto mi dice che stanno passando dei momenti terrificanti. Una donna a Van è morta bruciata nell'incendio della sua casa, data dai militari. Insomma, c'è una situazione, però dall'altra parte, proprio come prima di entrare ho detto, non mi sentirete versare una lacrima, devo dire che queste donne continuano ad andare avanti proprio perché si sono strutturate in maniera tale che, pur essendo estremamente collegate, no, sotto un ombrello politico dell'assemblea femminile curda, e anche con i soggetti politici formali, ufficiali, come può essere il consiglio regionale o il municipio, loro comunque mantengono le cooperative mantengono una indipendenza formale, per cui continuano a lavorare con le donne, sono molto determinate su questo, e trovo che abbiano una capacità di riposizionamento talmente intelligente e fantasioso che gli permette di continuare nonostante tutte le loro attività, e questa è un'altra forma di resistenza molto molto interessante. Bene, guarda, propongo una pausa musicale, mettiamoci in contatto e poi continui a commentare questa situazione. افكار مهجوره Hi, Joe. Hi, do you hear me? Hi. Hi. Yes. So we're happy to be in connection with you, and you just come back from Hamed, Diyarbakir in Kurdistan yesterday. Allora, ciao, abbiamo salutato Jody, siamo contenti di essere in collegamento telefonico con lei. Jody è appena tornata da Hamed, dal Kurdistan, e Jody vive a Belgrado, è una compagnia serba, aggiungo. And so the you were there because for the first day you were there was for the participating to the congress. La domanda è: il primo giorno sei andata per partecipare al congresso? Congresso che hanno organizzato, congresso that they organized because they cannot do manifestation or other things. Can you tell a little bit about this? Yeah, so it was the conference organized by the Congress of Free Women. Allora, si è trattata di un incontro, una conferenza organizzata dal Congresso delle Donne Libere. And it was so every 2 years generally the idea is that they make the conference like internal conference. Si incontrano, fanno questo incontro interno, una conferenza interna ogni 2 anni di organizzazione interna. But now, because of the current situation, because Congress itself and plus around 370 organizations are closed, like 2 weeks ago, they invited international support. E questa, vista la situazione di repressione che va avanti da sempre, ma negli ultimi anni in particolare, adesso si sono incontrate 370 organizzazioni e hanno anche chiesto alle... No, 370 organizzazioni, associazioni sono state vietate in Turchia, sì, e dunque, visto la situazione, hanno deciso di fare un appello internazionale per questo congresso. Yes, you can continue. Hello? And so the first, I was there for 3 days. The first day was the conference with about 700 women. C'era il primo giorno una conferenza di 700 donne, più o meno. And there they generally presented the situation, what's like how the repression is going higher, becoming stronger and stronger. Primo hanno parlato della repressione, della situazione, che la repressione sta diventando sempre più forte e più pesante. All of these organizations are being raided and sealed for the period of 3 months, but because it's the state of emergency, they prolong these 3 months, so nobody knows how long this will last. We didn't get what was raided and sealed. Raided, so they were, the police entered and they took whatever they managed to take from the organizations, and they sealed, they locked the organizations. Okay, quindi the offices. Ok, quindi queste organizzazioni hanno subito dei raid, sono state chiuse per ora per 3 mesi, ma non si sa quanto andrà avanti. Sono state prese tutto il materiale che avevano e così via. And the situation now is that since then that almost every day members of the parliament from HDP are being arrested, and co-chairwomen and co-chairmen are being arrested. La situazione è quella che membri dell'HDP vengono arrestati. And generally anche i co-sindaci e co-sindache. And there is a state of persecution against activists. E c'è uno stato di persecuzione contro gli attivisti e le attiviste. So at the conference we mainly talked about this, and how will the Congress, Free Women Congress, continue the work, because now they cannot work under this name anymore. Abbiamo parlato quindi della repressione, ma anche di come continuare, come può il Congresso delle Donne Libere continuare, visto che non può più presentarsi, usare questo nome. And the conclusion is, like, the decision that they made is that they will return to being a movement instead of Congress. The Congress was an umbrella organization. Umbrella association that gathered a lot of other groups. E quello che è uscito dalle riflessioni è quello di ritornare a essere un movimento, diciamo, di smettere questa struttura come un ombrello, struttura che appunto raccoglie e organizza i vari gruppi, appunto un po' come un ombrello, e che è il Congresso delle Donne Libere, e ritornare a essere più movimento, gruppi. And they will try to continue the work that they've been doing so far in the same way, so they will not go clandestine but still publicly do the work. E quindi continuare comunque a fare il lavoro non che stanno portando avanti, non a livello clandestino ma a livello pubblico, ma appunto come movimento, sì, insomma, immagino anche con un differente modalità di coordinamento. And also there was a form of discussion whether the HDP members of the parliament should leave the parliament or go back completely or go back to the parliament completely. Detto che because part of people from HDP who were in the parliament, they went out some time ago when all this began. Just a minute. I do translate, just a minute. Ha detto che una delle discussioni che c'è stata era quella di decidere rispetto ai parlamentari del Partito Democratico turco che non sono stati arrestati, se appunto vi si è considerato che attualmente, almeno fino ad adesso, i parlamentari non andavano in aula per i lavori parlamentari. Ora la discussione che c'è stata era rispetto a questo, come dovevano comportarsi, se rimanere fuori oppure o rientrare, diciamo, nei lavori in Parlamento, considerando che una buona parte sono arrestati. Yes, I was translated. Okay, carry on. Ah, okay. We translate in three. Ah, okay, because I can't hear you. And so the next day, so it was just a discussion, women said their thoughts, and the next day the HDP decided to go back to the parliament completely and to stay in this form of white as well. One of the reasons was this rape law that the Turkish parliament was planning to vote on. E dice che comunque dopo le discussioni hanno deciso alla fine che i parlamentari superstiti dell'HDP rientrassero in Parlamento e quindi riprendere i lavori parlamentari, e la decisione è stata anche presa a causa della discussa e terribile legge sullo stupro dei minori, delle minori, che poi di fatto è stata sospesa, insomma, per il momento. Yes. And I think this is generally about this one day conference that we attended. E questo è la cosa che poteva dire a proposito della conferenza. And then you went outside of Hamed. Yeah, then the next day we went outside of Ahmed. We went to a city called Şırnak. E poi siamo andati fuori Ahmed anche, siamo andati nella città di Şırnak. And it's one of the, so there are 9 cities in northern Kurdistan that have been destroyed since summer last year. Ci sono 9 città in Kurdistan nel nord, nel Bakur, che sono state distrutte dall'estate scorsa. So 9 cities were for a couple of months under, in different periods, under blockades and occupations, and this one, Sirnak, was the most destroyed. Queste 9 città sono state sotto coprifuoco in periodi diversi e per almeno per 2 mesi, e Sirnak è una delle città che è stata più attaccata e distrutta. And it's about 4-5 hours away from Ahmed. So we went there with the minibus. 5-6 of us, and on the way from Ahmed to Sirnak, there are police checkpoints, police and military checkpoints. So we were stopped a couple of times on the way. Abbiamo preso un minibus per spostarci, 5-6 compagne, e sulla strada fra Ahmed e Sirnak siamo state fermate 2 volte in checkpoint. Asked where we are going, but we had prepared, well, in the minibus we were preparing what we are going to say, so we were acting as tourists who are going to see some cultural heritage there, so we didn't have so many problems coming there, but Durante il viaggio la nostra, appunto, copertura era quella di essere turiste che andavano a fare un giro nei dintorni, e questa era la cosa che abbiamo risposto ai militari che ci hanno fermato, diciamo, quindi non abbiamo avuto grossi problemi, ma but when we came there what awaited for us is 2 kilometers long line with cars with people who are living in Sirnak, who have to pass the control every day, like whenever they go out of the city they are being controlled and harassed on when they are entering the city, they are in this queue. E abbiamo assistito alla coda di 2 chilometri fatta dagli abitanti che appunto sono controllati nei checkpoint sia all'uscita che all'entrata della città. And also ogni there giorno. Are people continuously pedestrians who are coming to this kind of a border, very militarized, extremely militarized border that exists at the entrance of the city. E quindi anche gente a piedi, perché comunque c'è un vero e proprio confine, border, per entrare nella città. And so there is police and military there. The moment we came, we were asked to give the documents and also what's the purpose of our visit. E quindi c'erano la polizia ma anche i militari, ci hanno chiesto i documenti, ci hanno fatto un sacco di domande sui motivi della nostra visita. And despite the fact that we said that we are tourists, they kept us there for more than 2 hours, continuously asking why we came. Ci hanno tenuto per almeno per più di 2 ore, continuando a chiederci perché se eravamo lì, quindi insomma non hanno creduto che erano turiste. Saying that they have to consult anti-terrorist squad unit or something like this. Dicendo che dovevano contattare l'unità antiterrorismo e cose del genere. And we for more than 2 hours we were standing on this border, having no idea what's going to happen, like whether we are going to get in or maybe they would arrest some of the women from Kurdistan who were with us. E quindi per più di due ore siamo rimaste così aspettando in questo confine, questo checkpoint, non sapendo se saremmo potuti entrare, non sapendo soprattutto se avrebbero arrestato alcune delle donne curde che erano in delegazione con noi. And finally after two hours they let us in, but they kept us for an hour more. Dopo due ore ci hanno fatto entrare, ma ci hanno comunque tenuto per altre quattro ore con nessun. And then when we at the end passed, they said that we can't make any photos, that in case that we make photos we will be deported, that we can't make one woman was forced to say that she will not make press release, which is from parliamentarian from Basque country, so they forced her to say that she will not make a press release. Ci hanno detto che non potevamo fare foto, che se avessimo fatto foto ci avrebbero deportato. Una donna del Parlamento Basco gli è stato fatto promettere che non avrebbe fatto, dopo rilasciato dichiarazioni, fatto una conferenza stampa. And for the big part of the time we spent in Chernak we were followed. E per la maggior parte del tempo che abbiamo passato a Chernak siamo state seguite dalla polizia. So they made sure that we don't make photos, and the city is it doesn't exist anymore. Siamo state seguite perché fossero sicure che non facessimo foto e la città comunque non esiste più. So there were 12 quarters. Neighborhoods in the city. C'erano 12 quartieri. Out of these 12, 7 have been completely destroyed. There is nothing, only ruins of the houses. 7 di questi quartieri sono completamente distrutti, nel senso che non c'è più nulla, ci sono solo rovine delle case. And you can see people collecting the construction material in attempt to rebuild their houses, because they want to stay, the Turkish state wants to evict them from there. E abbiamo visto gente che cercava di raccogliere i materiali di costruzione per ricostruire le loro case, mentre comunque il governo turco li vuole sgomberare dai loro quartieri. Basically, what's like the one view at this city clearly shows that it's raging war in Kurdistan at this moment, like in the past year and a half. And in a way, my conclusion is that it's a very slow genocide. Urbicide, but also a very slow and very systematic and planned genocide. E comunque quello che è possibile vedere è che è un sistematico, lento genocidio. Urbicide? Questo non l'ho capito. Yeah. Killing of the cities. Ok, urbicide sì, la distruzione della città è questa cosa è assolutamente visibile, ma il senso è che è proprio in atto con la guerra totale contro il popolo curdo che sta andando avanti da un anno e mezzo. È chiaro che è un lento genocidio. Just because we also have to finish a little bit, even if it's really interesting, I would like to ask you two things. Because you were in Habad one year and a half ago, so I wanted to know what is the changing, and the second thing is, how is the mood with all the women that you met? I didn't hear you, so how is the mood? Okay, so there is a huge difference between a year and a half ago and now. Okay, one of the reasons is that when we were last year in March, the peace negotiations were still ongoing. Allora, la domanda era, sappiamo che sei stata in Ahmed un anno fa, com'era un anno e mezzo fa a questo punto, com'era, che cosa hai visto di differente? E la prima domanda, e Jody sta rispondendo dicendo che è stata a marzo dell'anno scorso, quindi 2015, e it was 2015. March 2015, 15. Sì, ok, yeah, sì, March 2015. Sì, sì. Allora, in marzo 2015 era ancora in corso il processo di pace. Questa è una. So, sì. Yeah, so in March it was clear that Turkish state is using repression and intimidation, but not this. Quindi era chiaro che il Turchia stava già usando minacce e intimidazioni, ma non a questo livello. And then in June, HDP crossed the census and peace negotiations broke. And then whole hell broke loose. I mean, Erdogan and AKP, they started a war against Kurdish people and against women. E poi, sì, nel giugno... 16. In June, the HDP, HDP, they... crossed the census at the elections. Ah sì, sì, sì, sì, certo. Ah sì, sì, certo, ci sono state le elezioni e l'HDP è entrata in Parlamento e da lì è iniziata la guerra di Erdogan, del partito di Erdogan contro il popolo curdo e le donne. E le donne. So this is a huge difference in this year and a half. And the mood, despite all this, women, all women who we met, they are super strong. They keep saying that they will keep the fight no matter what. And they're very proud of this fight, and they say that if it wasn't for this resistance and this fight, much more people would die. La seconda domanda era com'è lo stato d'animo, com'è l'umore, come stanno le donne, le compagne lì, e Jody risponde che comunque sono molto forti e che c'è una grande forza resistenza e che dicono che se non fosse così la situazione sarebbe molto peggiore. E c'è l'orgoglioso. E c'è l'orgoglio, sì. Except maybe what is my feel, but this is my feeling, nobody said this, is that I think that they started feeling a little bit alone in all this. E questo è una, conclude Jody dicendo che è qualcosa che è la sua sensazione, nessuno assolutamente l'ha detto, ma che incominciano a sentirsi un po' sole in questa lotta, in questa situazione. Jody, we thank you a lot. We let you now. And okay. Yes, thank you very much. No problem. Okay, see you soon. Talk with you. Bye. Okay, bye bye. Ciao. Bye. Ciao. Ciao. E quindi abbiamo salutato Jody, la compagna da Belgrado che è stata da Med, e io chiederei a Patrizia di farci qualche minuti di commenti. 3 minuti. Ci sono le compagne dal Chiapas che stanno aspettando la nostra telefonata perché la compagna ha preso la pausa al lavoro. E allora, forse... saluto. Posso salutare? Allora, sì, saluti. No, quello è chiaro, sì. Se vuoi saluti. Rimanere con noi, non lo so. No, grazie, devo andare via. Guarda, vi saluto, vi ringrazio. Allora. Dico soltanto una parola rispetto a quello che ha detto Jody. Indubbiamente era in corso già quando siamo state, perché marzo, come vedo, è stata una data comune a tutte, no? Tutte le varie staffette internazionali nel 2015 che ci siamo recate nel Kurdistan turco e anche a Kobane. se anche l'atmosfera stava cambiando, è chiaro che a giugno la vittoria del Partito Democratico in Turchia sia stata una grossa brutta sorpresa per Erdogan. In fin dei conti lui aveva, se posso fare un brevissimo commento politico, molto puntato in un certo senso sul dialogo con il partito curdo, ma in qualche modo gli si era rivoltato contro. Ha capito, non dimentichiamoci che Erdogan ha solo un'intenzione estremamente importante, che è quella fondamentale, è quello di diventare una superpotenza dell'area da fare da contrappeso all'Iran e all'Arabia Saudita. Tutto il resto lui lo schiaccia e lo distrugge sulla base di quelle che sono le proprie priorità. Staremo a vedere adesso, dopo la posizione presa dalla comunità europea, che quindi ha bloccato l'ingresso della Turchia in Europa, quella che sarà la reazione di questa sorta di neo-sultano sulla questione dei rifugiati e dei profughi, perché questo è l'altro tema molto importante. Vi ringrazio tanto. Guarda, io ti invito a venire anche la settimana prossima se vuoi, perché è tutto fresco la lettura del libro, e se vuoi vabbè, ne parliamo dopo. Okay. Grazie molto e buon lavoro. Grazie. Grazie. Aullándole a la luna, aullándole a la luna, vomitona de sentimientos, es lo que hoy mi cuerpo saca de dentro. Reviento de tanto lamento al ver cómo a niñas les falta alimento. Cuerpos mutilados por la cultura del patriarcado, sin pensar el hombre lo que nos ha quitado. Brujas sanadoras, valientes provocadoras, rompiendo los esquemas que sustentan el sistema. Manos arriba, esto es un atraco, que me den lo que en siglos me quitaron. Aullándole a la luna, aullándole a la luna. Soy gata de siete vidas, yo solita me lamo las heridas. Salto por mi ventana, que a caer de pie me enseñó mi mamá. Y vamos a ver qué es lo que pasa, que en el juego de la vida quien no arriesga no gana. Problemas a montones, para cada uno busco soluciones. Con la manada cerca, aquí nadie se acerca. Y es esa fuerza la que mi puño expresa, la de todas juntas, como perras aullándole a la luna. Tiros al aire, que no se asuste nadie. Presencia de mujeres saliendo a la calle. Nuestra historia, con la cabeza alta. La calle y la noche también son nuestras, libre de agresiones y ninguna sin respuesta. Ya lo dijeron las perras de Varna. Somos muchas, somos tantas. Somos muchas, somos tantas. Somos cada vez más, cada vez más. Somos muchas, somos tantas. Somos cada vez más, cada vez más. Cada vez más, cada vez más. Cada vez más, cada vez más. Aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más. Cada vez más, cada vez más. Aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más, cada vez más, aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más, cada vez más, aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más, cada vez más, aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más, cada vez más, aullándole a la luna. Yes, the rabbi sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs.

alle 22:55, questa lunga discussione, riflessione sulle strategie, ce n'è ancora una. Ne abbiamo tantissime, però. Vai. Perché io ho pensato, ascoltando tutte le strategie delle compagne, che comunque concordo e che mi faccio miei anche, ma direi che alla luce della mia vita, forse la più forte è stato di scegliere di essere lesbica. È giusto, è vero, alla fine effettivamente rompe alianzas e separa. Io non lo quise ver e al darme cuenta estaba tan colgada. Sul sito mfla.noblox.org e anche su ondarossa.info, sì, quando avremo il tempo di metterlo, perché c'è ancora domani la manifestazione con MFPR, lo sciopero delle donne, la manifestazione sabato, i tavoli di domenica, dunque il blog forse infatti non sarà aggiornato subito vabbè, ma perché giustamente abbiamo anche da fare, quindi possiamo anticipare che abbiamo preso appuntamento con Patrizia Fiocchetti per la settimana prossima, per andare più in fondo al suo libro, alla sua esperienza, ai suoi racconti, ai suoi analisi, che sono molte, molto forti, sia su come lei vede la narrativa femminile, anche dico le sue parole perché non mi appartengono così tanto, per raccontare le storie di donne. Quindi ci sentiamo martedì prossimo. No, giovedì prossimo. Niente, sì, non ce la posso fare. Giovedì. Quindi me l'hai riconosciuta, sono io quella dello spot che sbaglia. No, non ci chiameremo mai il giovedì, ci chiameremo il martedì, io continuerò a sbagliare. A giovedì prossimo!